non mi nascondo, camisè camagata. Se Sandro si vuole giocare la barba e i capelli, sono pronti. Io ti faccio i capelli, Sandro, a chi la vai ma non ve le dici, va? Per ridere, mi sto dicendo per ridere, io e a putidini. Tranquillamente, non passa così, non passa. massa, liscio. Ma che se devono un roccio di corburo? Se si va un impianto come se si tocca da chi sta posizione, io dico che sta niente. Te lo dico io. Perché in quella posizione è più in alto di Franco. Sì, la sua posizione è buona, se ce l'hai cattiva, ci mancherebbe. Però non ce la fa a passare a caldo. Ma nemmeno così non ce la fa. Sto messa, adesso ci gioco anche il baracchino. Tutto l'impianto mi gioco, non ce la fa a passarlo. Va che così quello va a fare niente lì. Si va a copia, che sono lineare che vai, mi si sicura a faccia. Luca, a fottidini, fa le due riprove invece di callare. E comunque io sono sempre qua, Sandro, sono sempre qua. Quando vuoi, te la do io la Mantova, te l'ho detto e te la do. Io te la do la Mantova e uso di poi 10 metri. Verso Luca. Comunque mi meraviglio anche di Natalino, mi meraviglio di Natalino che è una vita che sta modulando e mi meraviglio anche di Natalino, dai, ma oh, lasciamo perdere, io ci andiamo a mettere un caffè su tutto il tuo. A tutti i dini, dai. Quando vuoi, Sandro, quando vuoi non ci sono problemi, dai, stiamo scherzando e ridendo, ma sappi che comunque sei un ottimo operatore, non ci sono problemi. Ma infatti non ti arrabbiare, è una prova, è giusto per così, per animare questo posto. Ma c'è qualcuno che al monte c'ha questi lineari nascosti ma non li tira fuori, io sto sempre aspettando da tanti anni, già da quando ero a Carbonazzi, però io sono sempre qua, io non ho problemi a dirlo. Ho un TL922 arrivato proprio 20 giorni fa che mi ha dato mio padrino ed è qua pronto all'uso quando qualcuno vuole provare. Lo uso solo in 10 metri perché altre antenne non ne ho, però in 11 metri non ci sono problemi. Quando qualcuno vuole provare, sappi Sandro che io ho 500 watt di radio per poter fare andare le mie radio come licenza. Poi ne posso anche dare di più e non c'è problema, ti do il vantaggio di usarne 500 tu e 500 io, va, verso Luca e verso tutto il monte, poi dove ti puoi difendere ti difendi, ma aspetto gli altri avversari, per il momento sono tutti qua, fa vedere, ma non hanno mai dimostrato nulla. Aspetta, volevo dire una cosa a Natalia, Franco è forte, già lo sa Natalia, è molto vicino a me. Beh, Claudio è la mattana, è un bel pure. È la mattana, un bel. Pure siamo a Gran Franco, altro discorso, perché è molto più vicino, è molto più vicino. Però ti posso dire, attaccato è un bel di mattana, un bel. Un bel, un bel di mattana. Ci ha preso Luca, sono farfalle. Sono farfalle che volano nel cielo. Abbiamo dato sempre fatti, non parole, nel 27, perlomeno a Claudio Sparviero, a tutte le direzioni. Sono qua, quando volete, io sono qua. Nessun problema, guarda, nessun problema. E ti dico, oh Sandro, che puoi venire qua, cena alla mano, guarda, 100 euro alla mano, te le metto sopra il tavolo. Se io sto usando l'antenna della 27, ti regalo una radio, io vieni qua, saliamo sopra il tetto e guarda se c'è il cavo attaccato. Parlando con di polo 10 metri, ma già si addirittura attacco la Mantova, cosa dici da cosa hai vedo? Ma che siamo più forti di lui, figurati. No, ma lascia perdere, abbiamo diverse zone per il momento, poi lui mette l'antenna e poi vediamo. Per il momento tutti gli altri hanno solo battate in testa, ma non avete un po' battate in capo. Quando volete, io sono qua, a vostra disposizione. Ciao Luca, mi stanno chiamando in 2 metri, sentiamo magari dopo, più tardi. E comunque usalo così come lo stai usando, tranquillo, che va ottimamente bene. E vabbè, te sappiamo un sacco, lì là. Fatto le prove, si disturbavo il tappo. Non sato, l'ha retalato con l'amplificatore. Se poi hai qualche problema c'è l'altro, non è che... abbiamo l'altro, il G27B che non ha problemi. Quella ne ha 2 di valvole, ho tanto una, questo ne ha 4, più una 5. Quindi vieni e te lo prendi. Tanto io non lo uso perché ho l'altro grosso. Va bene, ciao a tutti, guardati per me. Quando volete, bussate la porta che Claudio Sparviero apre a tutti. Poi ci veniamo con una macchina da capo, gli fa vedere un bene macchina di capo, ti ha. Ciao Lu. Ciao, ciao, ciao. Tu ti dimmi, Giovanna Torres, mandami, ok, vabbè. Cappa, cappa. Ando, ci sei. Non ci provare, Ciandro, che non ce la fai, non ci si sente un fischio sotto, ma Luca ti passa di brutto. Staccato ce la fa perché si sente un fischio sotto, ma non c'è modulazione, capito? Sì, dimmi Luca. Ah, sì, sì. Casino. È un casino adesso, è un casino. Arrivare a un traguardo del genere ci vogliono un bel soldi. Dove competere? Ci vuole. Lo so perché tu chiedi di lui quando era carbonati, cosa era? Cazzo, qua ne spaccavo un bel da carbonati. Non puoi competere, sa. No, devi prendere un bel. Se n'hai, allora passi burro. Perché la zona c'è buona, è video anche, ti invidio anche che è una zona lì. Ce l'ho dai uguali, ui. Sì, adesso domani ci metto quella cosa famosa. Come si dovrà costare ora? Sto levando qualcosa. Qua sul 3 sì, sul 3 più 30. Oh, guarda ora. Guarda adesso cosa ha fatto? Sul più 30. Ma è salito o è sceso? Sceso. Ah, così quindi che cosa? Tanto non lo so regolare, non lo so regolare. Vabbè. Sentiamo Lucaria. Erano più attesi. Mamma mia, siete poco assurdi. Già. Ma vabbè, ora ci sentiamo quando faccio l'impianto. No, ma noi ci siamo i castelli. Sto dicendo che non puoi competere, io sto qua. Poi se tu vuoi fare la prova, fate la scommessa. Poi una volta fatta la scommessa, se perdi paghi. Non ce la fai, sa, non ce la fai. Non ce la fai perché non mi avvai. Anche se c'è posizione, ci vuole un fatto, un medico fatto. E soprattutto radio. Guarda, ti dico solo questo, sono che scendi, con un roccio di coburo, una serio, tutto canta, ci ha curato, vecchio, che non si via nulla. Questo affare che c'ha roba di 80 anni, e domani intendo di spenderci un po' di soldi. E vediamo Claudio Sparmiero, ce la facciamo un bene. Non ce la fai adesso, non ce la fai. Lui ha più possibilità di te, tu non ce la farai mai, fidati. È come se Claudio si mette a puntinare con Walter, non ce la farà mai neanche lui, mai. Perché la volanza è più potente, ecco cosa è. Non ce la fai, sa, fidati. Ci vuole un radio, ce la fa un radio, un maracchino, radio. Alessandro, sali qua, non stai facendo niente. Fa, dai, che c'è più sorello. Vediamo un po', dai. Da 200 watt, immaginati a dici l'attacco UDL 922, a me mi viene da andare lì. Ciao a tutti, buon QRTA, divertitevi ragazzi e fate CB, che siete solo dei CB. Ciao Luca e ciao, ciao Luigi, ciao ciao ciao ciao. Capola, ciao ciao. Ciao anche a te Luca, ciao Claudio, che io vado a farmi questo caffè, se non guardo più, dai. Faccio bianco, chiudo proprio completamente, dai. Ciao a tutti che ce ne ascolto, dai. Ciao ciao Luigi, ciao, sentiamo. Buona caffeina, alla prossima. Vabbè, non commento, dai, non tanto non fa, non fa, non fa. Se ho già detto, io sto andando con la radio che dà solo 200 watt di radio e in più devo ancora dargli altri 1400 watt di antenna, cosa devo commentare? Dimmi cosa devo, commentare. Ui, ui, va bene. Ciao Sandro, ciao, fai la bravo, che sei una bravissima persona, continua a parlare 27 e non svegliare mai i cani che dormono, che quelli che hanno svegliato il cane che dorme, hanno vita brutta, capito? Sto sempre aspettando un amico, io, chiamiamolo amico, e c'è questi miei nascosti che però ancora non li ho visti, io non ho problemi, io dirò come un giro di chiavi, trovo fin di subito le mie nascoste. Vive bene che vive ultimo nel mio paese, dicono. Non ho problema, io non rido mai, rido sempre per ultimo. Però per il momento rido per primo, Natali. Quando troverò la persona che mi fa ridere per ultimo, sono sempre pronto. Ho sempre abbassato la testa, capito? Nelle gare si abbassa sempre la testa, mi hanno insegnato sempre a abbassare la testa. Quando uno perde, per il momento non ho mai perso. Dimostrami tu che sei vincente, io abbasso la testa nei tuoi confronti. Quando vuoi, come vuoi e dove vuoi. E io non posso fare niente, no? Non c'ho antenna, cazzo. Voglio un'antenna gribbata, non posso fare niente. Capito? Però c'è gente qua, quelli che se la possono abbassare la testa, non c'è problema. Uno è Walter, l'altro è Nicolò, si chiama Marco. Ce ne sono tante di persone che hanno le stesse cose che tu. Basta lì. Stavo mettendo la portante e comunque ci sono riuscito a capire. Io ti ho detto che abbasso sempre la cresta e tu sai benissimo di chi sto parlando, non sono competitivo con nessuno. Stiamo parlando degli 11 metri. Mi ha cresta e sto iniziando a difendermi. 10 metri, qualcuno di quelli che hai detto tu ha già preso colpi. Comunque non ci sono problemi. Sono sempre qua, Natalino, a disposizione di tutti, per tutti quelli che vogliono fare prove, io sono qua, senza nessun problema. Portanti, non portanti, tira e molla, contro tira e molla, non c'è problema, siamo sempre qua. Dimostratemi però di essere uomini, non di essere caporali, che vi sto ascoltando da 3 mesi e sto solo sentendo bim bum ma, come quel programma che fanno a Rai 3 per i bambini, bim bum ma, fate vedere il bam, lasciate perdere il bim. Ciao a tutti, divertitevi, kappa kappa, mi diciamo che ti chiamo. Bravo, bravo, assurdo, bravo. Ciao Antonio José, a me adesso attesi i lampioni della piazzetta. Dai, basta alle 15 che tu vado arrivato, che prima mi racconta. Papa Antonio José, 9:10 la matta delle varia. Dove c'è il verde? E all'inizio proprio il verde. fanno scala, dai. Paga. Anzi, se no, che si sono lamentati, non si vede la televisione. C'è nessuno? Davino, ci sei? Ehi. Buonasera. All'ombra. Mi si accende da adesso, sto. Io non comprendo un cazzo. Cosa, Natalino? Dimmi già. Ho detto adesso acceso, in questo momento. E io ci sono. C'è Luca. E se dovrebbe essere Alessandro. Sì, ma Luca non deve essere qua. No, era qua. Ma no, sono qua. Lo sento. Che vuol dire se è spostato, va? Sono più sicuro. Perché non lo sento. Lui è a Zerveni, a Natale, in campagna, sì. Ciao, no, ciao. Coricato, so. Lui, perché doveva chiamarti Antonio? Non ti ha chiamato. No, negativo, stamattina mi ha chiamato, ma adesso no. Ma ti ha avvisato che dovete venire a casa? Ma questa volta non posso venire perché devo fare un coso, un impegno di vita. Perché deve venire una persona qua e quindi non posso scendere. Infatti sto dicendo Alessandro che poteva fargli io lì qua. Ah, mi senti? Avanti, chi è? Antonio sono. Ciao, già. È bene. Ciao a tu. Mi ha radio, bra. Ogni radio chi vai? Sì, a Puglia, già va bene, no? Cosa tu? Ma mi stanno. C'è abbattimento. E niente. E non sei tu nulla, che ho splatter. Ah, così è. Allora attacco il Gigi, come si chiama? Adesso non riesco a dirlo. Oh, Gianni, fammi un colpo di telefono un attimo. Io stavo attaccando, deve essere. Lo stavo allucinando. Gianni, se mi ascolti, fammi un colpo di telefono. E un attimino che sto telefonando a Natalino per parte. Oh, dimmi chi è qua. Per Paolo. Aspetta, c'è il blatter, da. Un attimo, che sono con l'Inter, che qua sono i bigliaccaracci, ho bucato. Sto aspettando una telefonata di Gianni, un attimo. Fino a Firenze, in Attarighi, andiamo a pigliare un caffè da Fillù. Alessandro, attento Alessandro, se ascolti. Alessandro. E me da Tarì. Da Tarì. Gianni. Tutti scomparsi. Alessandro, sì sì. Alex. Guarda qua. Beh, apprenditi, ti ho detto se non stai facendo niente di salire. E mi stavo cambiando, aspetto arrivando, là. Ah beh, allora mi cambio pure io, là, così almeno. Tanto sto aspettando un'altra persona, deve venire qua. Ehi, io. Allora ne ho fatto un cazzo, vedi? Ma mi viene male a scendere a me adesso, perché devo aspettare questa persona qua. Non è che puoi salire tu qua. No, non salgo io, dai. E io devo dire, ti prepari così dopo magari riesci, cacciate un orso, da quello che lo studiare, ci prendiamo un caffè. E vabbè dopo il caffè, oh se no lo vuoi, se no che lo caffè non è problema, fare il caffè. Vabbè là, adesso me ne alzo e mi cambio. Perché intanto sto aspettando una persona. Tu quando sei arrivato al cancello mi fa una chiamata qui, bene qua. Ehi,